capir che senza te io me la cavo e come. E che sono ringiovanita e canta questa mia vita anche senza un perché. E molta acqua è passata, che sono che sarò amata molto meglio di te. Não sei.